canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto su questa frequenza? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Cambio. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Vediamo il giorno 15 se risolviamo con questa cosa, non ne posso più. Quando vai a fare la cistoscopia, quelli ti controllano, non è che poi ti danno la cura, è ovvio. Sì, infatti, guardano la sacca, la cosa, l'ecografia e poi mi fanno la cistoscopia, capito? La cistoscopia, già lo so, l'ho fatta 7 volte io già, per cui già lo so come funziona. Poi magari deve andare dal dottore, dalla dottoressa, che c'è lì stesso in urologia, ti danno l'appuntamento per farlo vedere il risultato alla dottoressa. E la dottoressa poi ti dice quello che deve fare. Infatti, è una dottoressa che mi ha visitato l'altra volta e era un momento che si chiama, comunque conosce quell'amico mio, a Giorgio. Infatti c'ho già l'appuntamento, ho fatto l'impegnativa, adesso devo andare il giorno 15 alla 1. Ha visitato la dottoressa lì alla Secca Bianca? Sì signore, mi ha visitato una dottoressa, mi ha fatto anche l'ecografia, mi ha fatto lì. Lui di notte sono dovuto andare a farmi visitare. Lo so, darò l'appuntamento anche di notte. Per cui lo... vabbè, per loro va sempre bene, per loro la notte e il giorno. Loro in ospedale è così. A qualsiasi ora può essere controllato o visitato la persona. Sì, era di guardia lì, è per quello che mi ha visitato e tutto. Vabbè, adesso vediamo il giorno 15, perché sono sempre a dolori giù, è un macello, mi fa male la pancia, mi fa male l'inguine dove mi hanno operato all'ernia, lì mi fa male anche. Ho capito, può essere la prostata o Natalia. Se è la prostata, ma adesso quando farò la cistoscopia già vedono tutto, vedono la vescica e anche la prostata. Sì, vedono tutto da lì. La prostata non è, perché l'attacca ha detto che non è, capito? C'è un'escrescenza nella vescica. Ho capito, vabbè. Si fanno un piccolo intervento, un paio di giorni e poi ci mandano a casa. Non c'è problema, già si risolve. Sì, infatti, speriamo. Certo. Pasqua, non ne posso più, sono da Pasquetta in queste condizioni. Purtroppo è così. Purtroppo è così. E cosa ci vuoi fare? Non lo so. Comunque. Quale dottore ti ha visitato? Non lo sai, della Secca Bianca, quando ti hanno consigliato di andare a controllare la vescica. Una dottoressa era, non mi ricordo come si chiama, una dottoressa era quella che mi ha visitato. Ho capito. E vabbè, no, perché ce ne sono tante, non è che ce ne sono una, ce ne sono tante. Va bene, va bene. Una vale l'altra, intanto poi ci sono le macchine che controllano, capito? Loro controllano tutto tramite macchine, computer, eccetera, eccetera. E vedono nel monitor, vedono tutto. Sì, ma gli ha detto a Giorgio, a quell'amico mio che è medico lì, alla Secca Bianca stesso, di portare il risultato del e la cosa, oltre all'attacco, anche l'ecografia, capito, di quello lì, li porto tutti e due via, perché vuole il dischetto, no, per vedere la situazione, e boccio tutto e via. Sì, tu devi portare tutte le visite che hai fatto, gli devi portare a tutte le volte che vai dal medico, e così loro controllano. Si medesimano. Avanti Antonio, chi era quello col fischio? Avanti Antonio, tu sei? No, non è Antonio. Vabbè, c'è stata una portante alta col fischio, andata lì, comunque non fa niente. Capito, dunque così, è tutta una fila abbastanza complicata e lunga. E che vuoi che ti dica? Poco fa ero col microfono normale, bene, stavo uscendo oggi. Sì, benissimo, benissimo, non c'è problema. Anzi, alle volte è meglio quel microfono normale che quello amplificato, così almeno non si sente tutto il movimento dell'ambiente di casa, la televisione, eccetera, eccetera. Con il microfono normale va meglio, perlomeno, evidentemente hai la stazione radio, ce l'hai vicino alla televisione, e dunque tutte le volte che c'è la televisione si sente più quella che la tua voce. Sì, questo è maledetto il microfono, gatto, tutta la mondezza di un accogliedo, già lo so, no, adesso è spento tutto, non c'è nulla. Ok, è lo stesso microfono che ho io, no? Il più 4, io sto usando sempre quello, ma l'ho sempre usato con tutte le radio che ho usato, ho sempre usato il microfono, quasi sempre, eccetto qualche prova così, ma se no io ho fatto sempre l'adattamento a tutti i baracchini che ho avuto e ho sempre utilizzato principalmente le baby più 4. Sì, infatti. Anche io ho sempre questo, c'ho anche il Tamer più 3, ma anche mi sobra Lampaddu, c'ho l'MC60, ne ho microfoni, la V508. Ok, sì, beh certo, sì, anche io ho il Tamer più 3, però mi era caduto e si è guazzato, non so cosa sia successo, sarà saltato qualche componente, non lo so, e allora l'ho messo da parte, ma è già da anni che l'ho conservato, non ho più poi ecco come si chiama, Salenta, ecco Master, ho anche quello, quando si piega il gambo, tutto quanto. Anch'io ce l'ho, nel 70 ce l'ho ben rimasto, dopo che ho venduto il VK, nel 60 mi è rimasto, quello me lo sono tenuto, quello non l'ho dato. Sì, infatti. Magari entra in mano un altro di Ghidi, ma non ne prendo più io assolutamente, mi basta quello che ho. Sì, ma infatti non è il caso, ora devi fare, basta meglio uno, funziona, al massimo uno di scorta proprio in caso di dovesse guardarsi il principale, diciamo, dai, la radio principale, basta avere massimo uno di scorta, poi tutti gli altri non se ne vanno da nulla del tutto, è solo così, tempo e spazio sprecato, va bene tanto. Infatti, come non ho antenne è per quello che non è inutile, si va che c'è azzurro l'antenna, cosa ne va di essere apparecchi, niente. Infatti non si vede nient'altro. Vabbè, faccio un Baufeng, quello sì, un PMR, là. Ce l'ho PMR, quello ce l'ho sempre, ma lì non c'è più nessuno, eccetto qualcuno che lo utilizza per farsi chiamata per darti appuntamento poi magari sulla 27, però non lo utilizza più nessun altro. Forse è il pompone, io faccio bravo i bizzini. Davvero? Tu ce l'hai il PMR? Sì, ne ho due. Vabbè, faccio tre, io devo immaginare. Per cui due uguali, ma li uso come radio praticamente. Li uso come radio e così almeno li posso sfruttare. Poi per il resto non mi interessa altro. Infatti. Io sto spento, ho il ricevitore pure e non ne sto usando, ne ho due di ricevitori addirittura e non ne so cosa attendere per usarli, se non vai antenne no, non fai nulla. Per il ricevitore quello deve avere, almeno un dipolo deve avere, se no non intende niente, intende poco niente, per cui soprattutto se è un ricevitore di poco conto, se è una cosa più seria magari, ma una cosa più seria ci vogliono un pacco di soldi, datelo, ma se un ricevitore da 70-80 euro che lo vendono anche da Amazon, uno di quelli così va benissimo, però deve avere almeno un dipolo per poter prendere certe trasmissioni anche da lontano. La parentesi che alcuni ci danno. Si è messo a bagliare, vuol dire ha sentito qualcuno scendere magari. Il cane è molto sensibile, dunque basta un piccolissimo rumore e lui subito abbaia. E vabbè, comunque così. Vabbè, dai. E poi tutto sommato, cosa te ne fai a vedere tanti baracchini quando voi non vedi più per questa? Oltretutto no. Sicché vedi bene che è da stupidi anche, soprattutto, a vedere tante, non serve a niente, basta vendi uno da 150 euro e sei a posto. E parli lo stesso, tranquillamente. E adesso soprattutto che comincia ad aprirsi la propagazione, anche oggi già c'è la propagazione, però stavo ascoltando il francese, stavo ascoltando in banda, ma magari vado a comprendere, non so bruciarlo per l'altro io. E anche io li stavo ascoltando i francesi poco fa, ma arrivano fortissimi qua, oggi c'è propagazione francese. Infatti anch'io stavo ascoltando addirittura Santiago Nove in banda laterale, ma per il resto un poco come tarissa. Mi bastano i soliti 2 watt, come in questo momento, come sempre, quasi sempre. Diciamo, proprio è un coso, tassativamente 2 watt, anche scarsi, perché misurati col wattimetro, un wattimetro anche discreto, un professionale, che me ne dà 1,5 watt, sì che ti puoi immaginare, sono tanto e tutto mi sento, e va più che bene, non ho bisogno di far calare c'è nessuno. E infatti, io pure mi non sto usando 2 watt. Tutti quanti la passione, la potenza, i tuoi macchini, se sai niente va in campo. Anche solo macchini mio, di che sia. Ma figurati da voi 50 anni e oltre, di frequenza di uno messo ancora alla potenza, ma cosa niente, ma chi se ne frega. E infatti. Tant'è vero che sto usando 2 watt io, cosa passa sarebbe nei pari buchi. gli auguro che venne a fare i buchi. Fare i buchi e pure parla e fare animali pure per me. Stai arrivando a Santiago Lope quasi, l'otto e mezzo, dai. Per cui va più che bene. Con noi va, se cosa vuoi Brasini? Che devi arrivare alle 9.30? No, non è importante, tu sai che la radio sia buona. Poi per il resto chi se ne frega del segnale alto, non me la butto più fluida. Ho sentito la colonia a Cracovia stamattina, oltre a tutti quei francesi. Io ho fatto solo una passata sul link nazionale, ho fatto il USB e basta, ma poi sono ritornato subito qua. Ero francese, cari comprendi. Sono passati quei tempi ormai di stare lì attaccato ore a cercare di capire quello che si dice. Allora, o ti comprendo la buona e ti devo anche sentire bene, se no non mi interessa. Così io la penso. E infatti, se non lo senti bene a uno è inutile di valla. Se uno invece lo sento bene, allora la questione cambia. Anche a me succede così. Siamo bovare e giriadi giù. Non è che stai bovare e giriadi, è che sai che ora, che dopo 50 anni si deve ancora sforzare le meningi per cosa? Per sentire uno che magari ti arriva a livello del QRM è scarso anche, ma che me lo vado a fare? O ti fai sentire o non me ne frega niente. Io ormai ho questa teoria, no? Non faccio più le 30 anni della volta, no? Sicché non me ne frega niente. O ti fai sentire o non mi tedeschi, io l'ho preso così. Sì, anche io. Mi è passata la passione, diciamo così. Prima ero più appassionato. Cosa ti volevo dire? Noi due giorni siamo oggi. Dimmi tu, bisogna che tu bruciendi la graviglia a cucendi e buh. Sì, insomma, dei particolari. Allora Edo è cucende, però se fa vedere Edo, no, secondo Edo lo deve raccontare l'altro. Vabbè, ognuno ha la sua teoria, tranquillamente, non c'è problema. Io la penso così, dopo 52 anni di frequenza, ma te lo conto, febbraio 1972 è nata lì, poi fa lo conto, 52 anni e alcuni mesi anche, 4 mesi di frequenza, figurati di uno si deve pulire dei problemi in capo, ma vai, ormai è finito questi tempi. Infatti io sono entrato nel 76, fatti lo conto quanti anni di sogo. Ucci, basta. Uia. Cosa vuoi? C'ho questi dolori che mi stanno ammazzando. Non mi ha fatto effetto questa baciglia che. Ok, sì. Purtroppo è così, lo so, i dolori. Qualcuno dice che all'asse dei beni ed è roba suia, qualcuno lo dice così, ma specialmente che andranno via personalmente non te ne rendi conto, ma quando uno le ha avuti personalmente allora te ne rendi conto di cosa vuol dire e capire qual è la situazione delle persone che ce l'hanno, ma che pochi due. Infatti, oggi meno male qualcosina ho dormito, deve essere che mi ha fatto effetto e mi si è calmato il dolore, no? E allora ho dormito un po' stanotte, ma ci mangiano, ui. Perché sono magari antidolorifici, quando passa l'effetto, dopo le ore di cosa diciamo, di fase, allora se ne prende, lo so, purtroppo sono antidolorifici, ma adesso che ti hanno fatto l'attacco, adesso che ti fanno la cistoscopia, scoprono effettivamente come devono andare avanti con la cura, eccetera, vedrai già risolto. adesso che tanto quando sono così in casa io ma ti fatto anche un problema. Va bene che sembra che mi si che ho risolto tutto, ma comunque devo tenere sempre sotto controllo. Adesso l'altro controllo lo dovrò fare a gennaio del prossimo anno, massimo, oppure alla fine del mese di dicembre. Però sto bene, diciamo che sto bene, dai, però i controlli ci vogliono sempre, periodicamente, no? Non bisognava o Natalì. Poi man mano che si va avanti con l'età, i controlli rimangono, sono sempre più importanti. Ehi Arzoggo, io sono sempre da un ospedale all'altro, pare che tutto sia venendo a me. Cesso, questa cosa ha tutto mi è successo. Ma pare vero a raccontarlo. Allora, non pare vero, no. Non hanno avuto niente, fa fortuna, non pare vero. Pare vero, ho visto la mentella, ma cosa? Non è così, no, però va, poco ha tassato pure lo saore dei problemi, del dolore, ma la vedi che cambia idea subito completamente. A Maragana, purtroppo è così. Entra in vigore il discorso, ognuno pensa a fare un altro suo, ma non è così, no. Uno fa un po' di umanità e deve pensare pure allo santo dell'altro, grazie a voi, no? Io lo credo. E manco male che ha già ciappato a Gianni, che ha avuto la buona volontà di accompagnarmi a Urbia per fare i fiaddacchi. A chi Franco non mi risponde, deve essere che non v'è. E ho trovato a Gianni e meno male già mi ha accompagnato lui, così l'ho fatta questo attacco. Dopo la prima volta, anzi no, a fare l'attacco mi ha accompagnato Giorgio. Gianni mi ha accompagnato a prendere l'esito. Manco mare che si è prisciato e due burso, che arrivi da pezzi a ritirarmi questo esito. Perché quando c'hai dolori già lo sai cosa vuol dire. Sono mi sono giunti proprio quando era agitendi che mi chiamavano ma dammi resito che c'è i dolori. Cesso, purtroppo sì, purtroppo io ti comprendo, io ti capisco Natalì, per cui non mi sei risente niente di novità, come ti sei buttato a ciappare una persona in questa posizione. Perché lo so benissimo, no? Se lo presenti, io sono così in canne, dal 2019, sì, dal 2019, si può immaginare, se ne è già passato il corso, sono le applicazioni installazione si chiamano installazione verticale, e cioè ti iniettano delle medicine direttamente dentro la vescica. Ho già fatto 36 sedute. Allora cosa vuol dire 36 sedute Natalì? Vuol dire che tu passi almeno, non dico molto, 36 per 3, fate quel conto di bruciore dopo che hai fatto l'installazione, no? E comincia la sera, ma te sì, anzi dopo qualche minuto, dopo c'è necessità di urinare, cioè, inizia il bruciore per almeno minimo un giorno e mezzo, due giorni, se no anche tre giorni. Perché fate il conto, fa 36 volte, fate il conto, ma 36 per 3, fate il conto, quattro volte ho dovuto subire il bruciore. Gesù che sei così bello, so così bello, che non l'ha provato, non lo sa. Ma che vuoi che ti dica? Oltre al fastidio, non è solamente il bruciore, perché ti obbligava ad andare ogni 10 minuti per QTH piccolino, magari non c'era niente perché l'avevi fatto la volta prima, però ogni 10 minuti con quel bruciore ti veniva lo stimolo, ma lo stimolo magari non era nulla, però c'era il bruciore e ti obbligava ad andare per forza. Purtroppo è così. E cosa vuoi fare? Siamo nella mano, nelle mani di qualcuno che è più valido e più importante di noi. Alleluia. Allora, vediamo cosa mi dici, né? Ma curie, la liquidità è mercoledì. Speriamo che trovo qualcuno a accompagnarmi, perché non me la sento manco di guidare. Io fortunatamente ce l'ho l'accompagnamento, vedi? Mi porta sempre mia figlia quando devo fare visite, eccetera. Perché è giusto che quando uno, anche se ci puoi andare da solo, però è meglio che ci sia sempre un accompagnatore. Senza dubbio, sembra così, ma è importante quello. Io lo so, ma mia moglie patente non ne ha. Bisogna mi accompagna a Duvissa che trabaglia da vacchino, che praticamente è come ci sia una visita a me. Mi ha accompagnato lei a fare l'ecografia da Origo a pagamento, 150 euro, e non me l'ho potuto manco scaricare perché li volevano dalla carta, io nella carta non avevo soldi e glieli ho dati contanti, capito? A chi dice che vuole tracciarli, Ridina? Ma qua. Sì, quello sì. D'altronde. Luce mi ha visto la giornata, ci pagato 270 io di nuovo ma con 4 di notte tra una cosa andata sono diventati 10.000, sono diventati tutte le attacche che ho fatto 270, si può immaginare. Tutte le altre va bene, le ho fatte con la sanità, però purtroppo oggi non c'è più posto, non ci sono più spazi per gli appuntamenti e sei costretto quando lo deve fare andare a pagamento a Maragana, se ti vuoi curare, se no date come ci sei e non interessa nulla. Ma Urigo manco a pagamento me ne ha fatto di tacchi perché era col contratto e loro col contratto non la fanno, la puoi fare solo in ospedale. Cesso che. E di chi se ne ha giocato io a due col contratto? Io lo so, col contratto solo in ospedale. Come li facevo, come li ho sempre fatti io col contratto. Se puoi immaginare, io tu ne hai fatto due, io ne ho giocato io a 7 o 8, boh, impreciso adesso non me lo ricordo, ma io ho tutta la documentazione, volendo posso sapere anche con precisione, perché ho una cartella da quando ho iniziato, tutte le visite che ho fatto, tutti gli appuntamenti che ho avuto con il dottore, ho tutto segnato dentro la cartella, e quando vado per le visite vi porto la cartella al completo, sempre aggiornata. Non è che me la aggiorno io, mi aggiorna tutto mia figlia, ho quella fortuna che mi fa tutto mia figlia. Se no magari io avrei saputo masticciare qualche cosa, allora, ma lei già è pratica in queste cose, già non c'è bisogno di insegnare niente. E infatti io invece mi devo fare tutto io. Mi danno una buona fannuda, non qui per gioia, ma purtroppo. E vabbè, bisogna avere un po' di pazienza. È importante, ripeto, avere la compagnia, soprattutto magari se è una persona giovane ancora meglio, anche quando fai colloqui col dottore, eccetera, è meglio che... Oltre a quello che ti dice a te, che lo sappia anche l'altra accompagnatrice o accompagnatore, così almeno rimane in mente a tutti e due, se che qualche cosa può sfuggire, se lo dici solo a me, magari quando andare via a casa mandatemi che cosa mi dai di quello che mi ha detto, per dire no. Invece c'è anche mia figlia e lei registra subito tutto e sappiamo come si deve andare avanti, capito? E infatti una questione è una visione così. Io purtroppo figli non ne ho e mi devo fare tutto da solo, capito? Ma già c'è Giorgio, mi accompagnerà Giorgio, penso, mercoledì, se non sta lavorando, se no devo dedicarmi a qualcuno che mi accompagna. Stai travagliando gli affari e fa vedere dura, dottoressa. A chi travaglia anch'io, compreso. È neuropsichiatra infantile, è quello. Ho capito, sì, sì. Beh, è sempre bello avere una mano che ti dia un aiuto. È sempre molto, molto importante. Per tante cose. Vabbè, comunque, è chiaro che non tutti possono avere la fortuna che certe persone hanno, perché lo sappiamo benissimo, tu immagini una persona anziana di una certa età che non riesce nemmeno quasi quasi a reggere in piedi, quando si presenta davanti che gli fa una, le dà una spiegazione, e dottore, tu pensi che abbia compreso qualche cosa con la persona? Poi è un po' difficile. E poi, e allora è per quello che ripeto, ci vuole una persona giovane che ti accompagni, ed è importantissimo. Certo che sì, uno se è un bel anziano non dà di assai attenzione ai suoi divisi riduttori, invece una persona più giovane registra già tutto. È così, vabbè, tu la prendete io, questa di cavalcata, là è sempre la solita tua, i soliti balli, i soliti costumi, non sai come ti funziona, no? Sì, è bello andare, vedere, stare lì, magari sotto il sole, o in mezzo alla folla, chissà che altro gatto guoppo di vera ancora in circolazione, con tutta quella gente, è anche rischioso, è anche pericoloso andare a stare in mezzo alla gente, perché sembra così, ma il Covid esiste ancora, non è stato debellato del tutto, per cui bisogna stare molto attenti anche a quello. Per cui se è possibile bisogna anche evitare di fare assembramenti, eccetera. Sì, l'importante è quello, evitare gli assembramenti dove c'è tanta gente giù per questa cosa qui. Un'altra maledizione che c'è calata da Ruggero, boh, cosa vuoi ti dire? E io infatti poi non vado da nessuna parte, io non mangio più gana, dovrei uscire, camminare, e come fai con questi dolori? Allora mi sono bloccato di tutto, però via, speriamo che mi passino questi dolori, almeno esco un po', non si può uscire, no? Lo so, sotto di me di gana, ero qui via. Io lo stesso potrei anche uscire, ma tutto sommato in un certo senso sono anche penalizzato, perché abitando in periferia, fuori dalla città, devo per forza muovere la macchina. E muove la macchina, arrivi a Sassari, cosa fai? Sì, puoi incontrare qualche amico, questo sì. Trovare magari, non so, andare a prendere un caffè, un cappuccino, una cosa del genere. Però il discorso è sempre quello, rimane sempre le difficoltà ci sono, ecco. Perché tu mi dai, ma le difficoltà, ma esci, io non so, ma esci, certo che basta uscire, sarebbe risolto tutto, o perlomeno risolto in parte, dai. Ma tutto sommato, invece quando abiti in città è diverso il discorso. Diverso sì, tu mi dai, ma lei che sei in America, lo sei a appena 4-5 chilometri. Ragazzi, qui 4-5 chilometri sembra così, però se fossero stati, se fosse stato per dire, non so, a Sassari, al centro sarebbe stato meglio. Come nel tuo caso, vabbè, tu vai a fare un parcheggio, se sei vicino non hai bisogno della macchina. Ecco, ma io invece ho bisogno per forza della macchina, capito? E infatti, tu passa a Sassari, devi per forza abbigliare la macchina, che sei lontano. Oh, yeah. se no c'hanno tutti un rumore, un'esplosione, Maria, chissà cosa Mara Turchi è successo. Cosa hai sentito? Un'esplosione? Dove? Lì dalle tue parti. Allora, ma forcimi, una cosa, un'esplosione enorme, chissà cosa Mara Turchi è successo. Sì, perché il delinquente avrà imparato o a che petardo di quelli di tipo bomba, oppure hanno messo qualche bel molotov, poi lo sa, sai, tutti i casi di malati di gabbo, e vedo oggi in questo periodo come è cambiata la strada, se dovessimo tornare indietro ai 50 anni, se dovessimo piangere quei tempi, considerando la malvagità e la cattiveria delle persone che c'è oggi. E infatti oggi è tutto giambardo, in oggi non si può più vivere, c'è gente che sta abbandonando le case perché ci sono tutti questi stranieri, capito? Non si può più vivere da queste parti, è diventato un bordello veramente. Lo so, purtroppo sì, purtroppo così, dice, bisogna dargli la possibilità di integrarsi, no, ma quelli non si vogliono integrare. Quelli vengono qua per delinquere, basta, vogliono integrare, ma non è tutti nulla di integrarsi, assolutamente, quindi vivono così al mappo, gratis, con tutte le assistenze di questo mondo, che magari a uno italiano o sardo, che nel caso della Sardegna non ce li ha tutte quelle attenzioni, quegli aiuti. Purtroppo così. Allora, è un macello. Ma già due di rapini in Iran è fatto, a chi ci dava chi non vive in Obisotto. Però l'ultima voce ha acciappato la commessa che aveva gli attributi sotto. Dice che la cultù e si era fatto bugia un rapinatore. Avevo visto le immagini in televisione, io avevo visto che si è difesa bene, però ha rischiato moltissimo, e devi stare attenta quando vado, ma che è lei proprietaria del negozio oppure è una dipendente del tabacchino? Una dipendente, Edue di Vura, di Dorralma, Edue, che fa una catena di tabaccherie, c'ha un bar, non so quante attività c'ha questo qui. E questa qui è di Cagliari, abita a Oristano questa qui, è venuta per sostituzione mi qua, per sostituire una commessa di qua. E praticamente di notte mi alla chiusura gliel'hanno fatta. Deve essere che abbia l'abitudine a giocare, l'ho visto, a chi se no la via è parata, ha rischiato molto quella ragazza, non se ne rende conto ma è così, secondo me ha rischiato, ma molto però. Infatti ha rischiato molto, sì, io lo credo che ha rischiato, infatti dovrebbe, no, pensavo che fosse il gestore del coso del tabacchino, invece non mi stai dicendo che è una dipendente, sicché non è nemmeno fissa lì, è una momentaneamente lì al momento per poter appunto portare avanti l'attività, ma suppongo che poi tra un po' non ci sarà più nemmeno lì. No, viene solo per sostituzione, mi sembra che c'è oggi, da voi se ne torna a Oristano, lui lavora fissa a Oristano, però fa le sostituzioni, mi la manda in giro quando c'è bisogno, manda lì. E un'altra ce n'è pure che fa le sostituzioni. Qui c'è Alessandra, un pezzo di Bizzina, una bella ragazza. Ok. Perché il padrone della tabaccheria non è più quello che c'era prima, quando era di fronte, lì all'angolo di San Donato, no? Non è più quello, l'avevano venduta la tabaccheria e ce l'ha acquisita questo qui, che è una catena di tabaccherie e spazio un po' dappertutto, così. E allora, in tutta la Sardegna, è una catena di tabaccherie che ha questo. Sì, ha venduto, visto che veniva prima, ha venduto. Ma è una miniera, questi ci sanno fare, cazzo, non è come te chi tu vivera prima. Quello non guadagnava manco un quarto di quello che guadagna questo. Questo è una miniera e sul baracchino. Cos'è? Tanto bisogna essere tagliati per fare i commercianti, lo primo. Poi c'è anche da considerare, tu mi dai, ma la posizione è sempre quella. Il tabacchino ha bisogno anche che abbia uno spazio per fermarsi le macchine, perché sennò il lavoro sarà sempre ridotto, non ci sono dubbi. Perché uno che passa lì, che ha bisogno di entrare al tabacchino, deve fare fronte. È affidamento solo alla gente che va a piedi, ma oggi la gente è a piedi, chiaro, sai benissimo, si muove poco. Oggi se non va la macchina, ad esempio, sotto lo sedere la gente non è neanche contenta. Per cui una grandissima fetta di lavoro lo perde, almeno da quelli di passaggio, da automobilisti, eccetera. E non solo, anche altri. Perciò sarebbe bello avere un tabacchino, però in uno spazio dove si può parcheggiare, dove c'è possibilità di parcheggio. A Usì, che posso autorizzare, no, non è facile, vai. Eppure no, che bella vita, sempre vinta a paura. Ma lo sarà niente di panda, una miniera è quel tabacchino. Quando vi rapia chi dato, non andava mai nessuno, che va via diverso modo di trattare. Qua ci sono le commesse che ti fanno il sorrisino, gentilissime. E beh, sempre la vita mia, non so se vuol dire la vita mia fattura. Sì, beh certo che sì, ma evidentemente fanno affidamento sulla gente che va a piedi lì. Vabbè, con tutti gli altri, i tabacisti che vedo a Sassari, vede poco niente, su 10 persone 8 che fumano e 2 non fumano. E magari in quella zona, sai, soprattutto nella zona mercato, eccetera, eccetera, ci sono tantissime persone, tutte vanno lì a comprare le sigarette e non solo. Quando uno ha la fortuna di avere un certo giro di clienti affezionati che vanno lì, è buono, però se ci fosse spazio anche per il parcheggio sarebbe ancora meglio. Lo so, ma già parcheggiano i romattesi, nei vicoli parcheggiano, la appoggiano lì 5 minuti, vanno, si bigliano chi sui sistemi in bigliaia e via. Poi questa fa tanti servizi, delle forze, capito? Ti magari i bulletti, non è solo tabacchino, no? Ti sto dicendo che è una miniera quel tabacchino. Quello è importante. La ricarica dei telefonini, le bollette della luce, del telefono e così via. Quello è importante, ma beh, meglio così, ci vuole anche fortuna, ci vuole anche fortuna nel lavoro, nel commercio. Ci sono quelle persone che stanno di imprese, non sanno niente. Ci sono quelle che non riescono ad esaurire la necessità della gente perché magari o perché hanno poco personale o perché la gente vede che c'è un affollamento, cambia aria, eccetera. Per cui è meglio comunque che lavori, no? Buon per loro. Sì, infatti, chi su vi sa fa, perché quando ce l'avevano i vecchi proprietari quel tabacchino che era dall'altra parte, non andavano nessuno che per la vita pensa fuori, devi agitare un turno per entrare, se sono contenti che non pari vero, c'è sempre la fila. È meglio così, è buono così, vabbè dai, adesso 11 e 20, esatti, 11 e 20, esatti. Intanto nel frattempo non è 31 in frequenza. Adesso dove vuoi va? E non è questione a dire, non c'è nessuno, non ha proprio gana nessuno, è la parola più giusta, non ha gana nessuno, non è che non c'è nessuno perché non c'è nessuno, è perché la gente non ha più voglia. Sì, magari c'è anche Gianni Dupiurrun che sta ascoltando, però sta facendo cosa a casa, oggi avrà gente sicuramente che è domenica e quindi non può entrare, capito? Ci sarà quello che lui ci dà la graviglia, mica consumi mi, e poi non sei nessuno, ti lo dici pure Giulia che non sei nessuno, tu lucideggia, vedrai la consumi quella graviglia. Cosa hai detto? Cato che poi ho fatto intendere lo manco, no? Non mandare la portata di tua birra di bruci e fruscetti, che non si comprende nulla. Gianni fa vedere poco, tanto che sono poco e fa vedere, allora manco fatelo comprendere che sono vedi. Ma giusto, mi ci permetterete, ciao a tutti, ciao, chiudo i battenti, ciao. Oh, la gente che attacca un soldo da te si è fatto sentire, ciao Luca. La gente un soldo da te si devo buccare, chi la picco, chi oggi è riuscito a farmi da Luca, a te le immagini giù. Lo so, come è, è sempre all'ascolto, lo so, come è, però non va fiato, non va abbastanza avviato, ma fa vedere, compreso. È ancora giovane, mio, è ancora giovane, è un bel più giovane di me e di me addirittura va la medaglia delle dai, di te va 20 anni manco, se non di più puro, per cui, però non la gana, compreso, è mandrone, compreso, è un mandrone, un mandronazzo, no, non la gana e va a vedere, dove sempre a contento e basta, e parisso è. Ma cosa hai fatto domandano? Prima di lavarsi la faccia, si lava la lecce, ma poi li accosta bene. Da voi magari si lava pure la faccia, però prima si accostellava la lecce, non sa mica dico. E allora che te lo so che c'ha le orecchie pelose, c'ha. Poi via la imbrucia, ma imbrucia la graviglia, ma è la farà due, fa chi suo che non fa vedami, a chi è l'uccidente, mi la consumi sa graviglia. No, non mi interessa più sinceramente. Sinceramente non mi interessa più, prima c'era più cose, più passione, giravi tanti canali, entravi in uno, te ne andavi da lì, entravi nell'altro, ascoltavi in uno, ascoltavi nell'altro, ma non c'è più, non essendoci più nulla mi è passato davvero la passione, capito? Anzi, sto trasmettendo perché ancora non ho venduto l'antenna, se no manco visto io che fatto, si può immaginare, anzi mi interessa. È tutto morto, tutto chiuso, i canali non vedo più nessuno, sicché mi è passata tutta la passione. E da questo 50.000 ne accorgo, come ti dico sempre. Ciao, ci sentiamo forse la prossima settimana. Ciao, avanti Giulio. Ok, Lu. Vabbè, tu hai due idee, d'accordo. E nessuno ti può dire no. Io non è che ti contesto le tue idee, però se dovessimo parlare tutti quanti e pensare in quel modo, è chiaro che non c'è mai nessuno, perché magari tantissima gente pensa come te, come me, anch'io lo so benissimo come lo sta Natalino e come lo sappiamo tutti che non c'è mai nessuno, però se non accendiamo e parliamo non ci sarà proprio mai nessuno veramente, se invece di tanto in tanto ci facciamo sentire, qualcuno spalanca le orecchie e si fa sentire e c'è la possibilità magari di qualche piccola ripresa così della 27, invece in questo modo tu non entri, io non entro, Natalino non entra, tutti gli altri non entrano, e allora cosa avremo? Prendiamo il macchino e lo mettiamo nella cassola della Mondezza, perché manco da Marcello lo potremmo buttare, perché pure se lo butti da Marcello nessuno andrebbe pure a ricomparselo, a fare un vecchio, per cui è così, io l'ho preso in questo modo, o si parla o non si parla, e lui sta lì, poi uno, poi se c'è una giornata che non ne ha voglia, o perché si sente male, o perché ha altri impegni, o perché per una questione morale, qualsiasi cosa, insomma. Però questo non significa, non vendi uno e non ne va vedo più nemmeno io. Vabbè, siamo liberi di fare quello che vogliamo, d'accordo, però a questo punto è, è, uno, è un errore, è un errore che facciamo tutti, eh. Non è che sto dicendo che è un errore che fai tu, è un errore che stiamo facendo tutti, Luca. Infatti anch'io lo dico così, se ce la pensiamo come Luca non entra più nessuno e la 27 muore, e secondo me è un errore, perché la 27 secondo me è la più bella frequenza che esista. Avanti più chieto, che sei, fate sentire che sei basso, troppo basso, fate sentire, avanti, non lo capisco, no. Tu lo senti bene Natali, io lo sento bassissimo, non capisco quello che sta dicendo, tu lo senti Natali? No, negativo, perché c'ho lo squelch, vedi, un altro errore, mi ha abituato a mettere lo squelch proprio perché non entra mai nessuno, se no io mai ne mettevo di squelch qua. No, no, non si capisce, è troppo debole la radio, no. Non si capisce quello che dici. Segnale discreto, Santiago 7. Però la radio è molto, ma molto bassa, no. Prova a avvicinare di più la bocca al microfono, magari aumenta un pochino il tono di voce, poi se che riusciamo a capire qualche parola di quello che dici. Non lo so, intanto che sei, avanti. Stai parlando da Itili, così hai detto? Ehi, Leone, da Itili, dai, ascolti là. Adesso hai migliorato un bel po', adesso hai migliorato. Sei da Itili, noi siamo a Sassari, sia io che Natalino siamo a Sassari. Io sono Giulio e poi c'è Natalino dall'altra parte che adesso te lo mando avanti. Poi ci dici come ti chiami, io perché non ho capito il tuo nome. Vai Natalino. È Leone da Itili, io ho copiato questo, Leone da Itili. Ben sentito, adesso già ti sento, ho tolto lo squelce, poco fa non arrivavi per nulla. Avanti Giulio. Ah, Leone da Itili, il vecchio CB Leone da Itili. Ciao Leone, Giulio Dollaro da questa parte, ti ricorderai di me, abbiamo parlato tantissime volte negli anni passati, ma adesso gli assenti tu per un bel po' di anni, per cui la voce l'avevo perso, la memoria della tua voce, per cui avanti Leone, allora ce l'hai sempre baracchio, oltre a me che l'hai comprato. Avanti Leone, mi ascolti? Ha problemi all'antenna sicuramente, perché poco fa arrivava più bene. Adesso che hai cambiato parecchio va un po' meglio, eh? Adesso mi dovresti sentire meglio anche a me, eh? Prima mi sentivi più basso, adesso mi sentirai leggermente meglio, perlomeno nel radio mi senti meglio, confermi Leone? Leone, quest'ultimo passaggio sei di nuovo basso, eh. Io ho capito che gli arrivo basso, ma mi sento più chiaro. Allora aspetta un attimino, Leo, aspetta solo un attimino, vediamo un po' adesso. Ecco qua, adesso così va bene Leone, dimmi se va bene adesso così. Ok Leo, ho aumentato un pochino la radio, dai un microfono, va bene così, vai Natalino. Sì, non so se mi ascolta, io l'ascolto basso, basso, basso adesso, poco fa l'ascoltavo meglio. Quando sei a casa hai detto senti bene, quando sei fuori non senti più. Ma perché cosa stai usando? Portatele stai usando. Oh Leo, arrivi, a tratti arrivi discretamente, a tratti invece sparisce quasi la radio, non lo so per quale motivo, forse il microfono te lo allontani troppo dalla bocca. Non so cosa dirti Leo. E allora, come mai tutti questi anni di assenza dalla frequenza? Non ne avevi più voglia, Leo? Non c'è più nessuno, cosa faccio? adesso ti sento benissimo, guido, adesso ti ho sentito a meraviglia, proprio alla radio buona, buona, buona. Non c'è più nessuno, infatti stavamo parlando di questo discorso. Se tutti dovessimo prestare in quel modo, è chiaro, non c'è nessuno e non ci sarà più nessuno veramente. Ma se tutti, quando ci siamo, entriamo, perché tanta gente, noi parliamo, tanta gente...